cosa ci insegnano i santi? I santi hanno avuto soltanto paura del peccato. Fuggito il peccato, liberata la loro coscienza dal peccato, si trovavano subito pieni di gioia, pieni di festa, voglia di cantare, voglia di tornare al proprio lavoro, senza problemi, senza questioni, senza ripiegamenti, senza nervosismi. E così, questa è la strada che hanno percorso i santi e che anche noi intendiamo percorrere. Piano piano, siamo anche noi condiscepoli dei santi, fratelli dei santi, figli di santi. E perché noi ancora siamo tristi e passiamo delle giornate a volte che non arriva mai sera? Perché? O di notte non arriva mai mattina. Ma perché siamo così tristi? Ma Dio ci ha messi al mondo per essere tristi? Ma Dio ci dà adesso questa ora qui, questo momento qui, ce lo dà per essere tristi? Ma no, Dio non ci ha mai tenuti al mondo neanche un attimo per essere tristi. E se tristi siamo, lo siamo a dispetto suo. Ma il nostro padre ci ha messi al mondo in 9 fratelli. Non ho mai sentito che ci abbia messi al mondo per essere degli arrabbiati. Anzi, quando ci vedeva a tavola un po' su di giri, un po' arrabbiati, diceva, oh ragazzi, ma è così che si viene a mangiare a tavola con vostro padre? Ma cosa c'è da litigare? Attenzione, né? Che io a tavola non voglio bronci, musi lunghi. Semplicità di un povero contadino, papà di famiglia, cristiano, contadino. Volete che Dio, immensamente padre, infinitamente padre, ci abbia messi al mondo per venirci qui a mangiare le unghie, a roderci? No, tutt'altro, provate. Vedete, quando siete in amicizia con Dio, vi viene voglia di cantare, diventate generosi, pagate il gelato, il bicchiere, il caffè, agli amici. Cosa c'è di nuovo? Sì, è andato a confessarsi. Andato alla Madonna della Corona, volete un'esperienza? Me ne intendo un po' perché sono andato poco distante da Spiazzi, vero? Quelli di Spiazzi vivono un po' sul santuario della Madonna della Corona, vero? E sperano che tanti vadano giù a confessarsi, perché quando tornano su, non solo ordinano il pranzo, pagano bene, pagano anche la mancia, danno anche la mancia, e pagano anche chi non ha voglia di prendere il caffè. Si sono confessati. Ah, ve ne intendete anche voi, eh? Io lo so anche perché qualcuno mi ha aiutato anche a fare questa casa qui, anche altre cose. Quando queste persone erano su di giri, pieni di grazia, pieni di gioia spirituale, ecco, potevi chieder loro anche la camicia, che te l'avrebbero anche data la camicia, le scarpe e il resto. Tanto erano su di giri, su di morale, come ho visto tante persone morire serenamente, serenamente. Ma capite cosa vuol dire morire contenti? Ma è il colmo, il culmine della vita cristiana. Che uno sia contento perché ha davanti un buon bicchiere, perché ha davanti una buona spaghettata, perché sta facendo una bella gita. Ma scherzare, essere felici in punto di morte. Ma ditemi voi, è il colmo dei colmi. Sì, ma per uno che crede in Dio e che di Dio si fida, questa è la norma, è la norma, è il solito. È costume morire nella gioia quando si è vissuti nella gioia. La vita d'altronde ci è data per questo. Impariamo ad essere nella gioia adesso, giorno dietro giorno, per esserlo poi nella immensità della gioia di Dio, la vita eterna.